24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, ben svegliati, cari ascoltatori. Dai, che anche oggi ce la fate. Anche oggi siete ben svegli. Questa è Radio 24. Siamo in diretta fino alle 9. Oh, mamma mia. Si è già aperto il nostro bar così. Proprio. Uno ormai schiocco le dita e si apre il bar di Radio 24. Sempre i soliti clienti. A un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente, come sempre, il caffè a tutti quanti, paga Nicole Minetti e oggi voglio salutare un graditissimo ritorno, due graditissimi ritorni, Mirta Merlino, buongiorno e ben svegliata. Buongiorno. Eccoci, l'aria che tira in onda sulla 7 dalle 11 e l'aria che tira com'è? L'aria che tira è pesante. È pesante. È pesante e tra l'altro insomma diciamo che c'è anche un certo olezzo che viene dal mondo della politica. C'è una festa infatti che ha riecheggiato un paio di giorni fa, forse l'emblema del momento attuale, una festa a Roma, no? Diventa. C'eri tu a quella festa? No, non sei andata. No, devo dire di no, non sono andata, però invece si sono imbucati in tanti anche la presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio, che ha pensato bene di farsi fotografare seduta su un gabinetto, per dare il senso di dove siamo arrivati. Infatti, ieri anche ha detto al Corriere della Sera, mi volete crocifigge per un aperitivo? 8.800 euro il costo dell'aperitivo, per cui Fabrizio Roncone le chiedeva conto. Esatto, sono impuniti, quella è la verità. Impuniti. Saluto anche Maurizio Tortorella, ben ritrovato Maurizio, eccoci qua, il vice direttore di Panorama, buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. L'aria che tira oggi, ho preso in mano Panorama, com'è che Magna Casta, ecco l'ho perso subito, prendo le cose in mano, eccole qua, Magna Casta, il grande libro della casta. Insomma, è un libro nero. Nero, sì, proprio. Da A alla Z tutto il peggio del peggio. Poi io ho preso spunto da un senatore che di recente ha detto pensate la cosa peggiore e domani accadrà, ecco. Pensate la cosa peggiore domani accadrà. Oggi voglio partire a farvi fare qualche considerazione dal signor Piazza Antonio. Avete letto la sua storia che proviene da Lecco, il presidente dell'Aler, che ha fatto, ha parcheggiato per 3 anni la sua Jaguar in un posto per disabile. E già questo, voglio dire, la dice tutta. Ma quando è stato beccato e la polizia gli ha fatto spostare la macchina, lui cosa ha fatto? Per ritorsione ha bucato le gomme del disabile che aveva quel posto assegnato. Sentite, perché ci vorrebbe, devo dire con massimo rispetto, ma un traduttore simultaneo per tradurre quello che le parole del signor Piazza Antonio, ma voglio farvi sentire cosa ha detto alla RAI quando l'hanno pizzicato con questa cosa. Sentiamo alcune di queste parole, perché l'ha fatto. Subito ho chiesto scusa per l'incazzatura momentanea, però subito io mi sono reso conto che ho sbagliato. L'ho chiamato. Ma che è così? È così. È così. Mi è venuto in mente, ho bucato le gomme così. E poi sentite ancora Piazza che dice: c'è gente che fa peggio di me. C'è gente che ha fatto peggio di me. Ed anche ancora nel suo partito? Io non so giudicare. C'è gente in generale che è peggio di me e sta fuori, resta tutto. Vabbè, metà delle parole non si sono capite moltissimo. E poi ancora, come definisce, cosa ha fatto? È stato un errore tecnico di incazzatura. Questo ha fatto questo errore tecnico di incazzatura. Ha un errore tecnico? Di incazzatura, che capita. Ma se dovesse vedere in seguito che il partito con gli altri fa due pesi e due misure, lei che pensa? Vabbè, lei che pensa? E ancora Piazza, da 3 anni che parcheggio lì, ma che problema c'è? La mia preoccupazione non è stata perché avevo parcheggiato, avevo invaso la corsia del disabile, ma perché, vede che qua c'è un divieto. Pensavo questo, a quello là pensavo. A tutte le ha fatte? Cioè, non pensavo a quello. Ma lei le ha fatte tutte, le ha messe praticamente in divieto. C'è sempre parcheggiato, 3 anni che parcheggio. In divieto? In divieto, ma qual è il problema? Ma non quello si è il problema, è in divieto, è 3 anni che parcheggio qua, qual è il problema? Allora Mirta Merlino, per carità, è una piccola storia che proviene da Lecco, ma oggi sia Massimo Gramellini sulla Stampa, Mario Giordano su Libero, si concentrano su questa piccola, grande storia emblematica del livello a cui siamo arrivati in questo paese. Beh, secondo me è giusto, perché appunto dicevamo prima di impuniti, cioè c'è qualcosa di tremendo che ormai è entrato nel DNA, no? A me mi è capitato ieri a Roma che stavo in macchina c'era un rosso, quindi per i pedoni, io quindi passavo su, e una signora che passava col rosso, dato che insomma, le sono passata un millimetro naturalmente, perché lei continuava a attraversare col rosso, si è girata e mi ha cominciato a insultare. Cioè il problema ormai è questo, cioè che non solo la legalità, le regole sono completamente dimenticate, ma ti arrabbi pure, perché l'idea è che tutto è lecito, tutto è possibile. Tra l'altro sul tema di questa cosa qui c'è sempre il problema poi di cioè, questo signore si parcheggiava nel posto dei disabili. Ma sì, ma certo, ma voglio dire, non è scusabile in nessun motivo, ma poi gli ha bucato le gomme, cioè capisci? No, infatti cioè, il tema è tutto quello che noi facciamo, la cosa da capire sempre, che quello che noi facciamo fregandocene del prossimo è una cosa che lede sempre il diritto di un altro, no? Ma lui dice, ma qual è il problema? È come i finti invalidi, questo paese è il paese che c'è il record dei finti invalidi, e dopodiché i veri invalidi ogni volta vanno, per avere a mendicare, si passano delle trafile. Ieri Maurizio Ortorello, è un caso che conosce molto bene, è venuto da me in trasmissione, Pino Buongiorno, a raccontarci questa storia incredibile che gli è capitata. Di Panorama, collega di Panorama che ha avuto... Pino Buongiorno ha avuto una storia di mala sanità spaventosa, perché avendo il diabete è stato mal curato, il suo piede diabete ha dovuto amputarsi il piede. A questo punto lui comincia una trafila che, se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere, perché finisce a farsi fare questa visita alla ASL di Roma per farsi certificare l'invalidità. Lui arriva alla ASL di Roma in carrozzella, perché si è amputato il piede, e deve andare a farsi la visita di controllo al secondo piano. Peccato che all'ASL di Roma da mesi l'ascensore per arrivare al secondo piano è rotta. Allora a quel punto Fino a Buongiorno e sua moglie protesta, dico: come ci arrivo al secondo piano in carrozzella? La moglie va su, parla con le dottoresse, che non credono che l'ascensore sia rotta, quindi comincia un diverbio. Queste, insomma, dopo ore di discussione scendono giù le dottoresse, lo guardano e dicono: allora ci spieghi. No, sai, lui spiega cosa è successo. Allora dico: vabbè, ma lei fa giornalista, cosa vuole che sia? Dice, scrive con le mani, scrive sul computer con le mani, mica c'è il problema. Cioè, insomma, è una trafila. È chiaro che la situazione, io non lo so, nel sentire le parole di questo signor Antonio Piazza, Maurizio Tortorella, tu hai qualche considerazione da fare? A parte, non so se quante ne hai colte di queste parole, te ne vorrei far sentire un'altra, forse si coglie meno, ma la nostra Elisabetta Fusconi ieri l'ha chiamato, lui ha detto no, non parlo più, anche perché quando parla è difficilmente capibile, ma sentite cosa ha detto. Sono disposto a fare volontariato come disabile, ha detto anche. Io non ho nulla contro né diversamente Abra né contro nessuno, anzi se per questo io sono disposto onestamente anche a fare volontariato per un breve tempo con i disabili. Ho capito Maurizio, sono disposto tempo, a fare... Mi pare che abbia detto per un breve tempo. A fare volontariato come disabile. Voglio dire, al di là del facile ludibrio a cui può essere sottoposto questo signore, inevitabile temo, ma anche perché chi è causa del suo mal pianga se stesso, io da qualche giorno penso con malinconia a Antonio Albanese e al suo personaggio Cetto la Qualunque. Malinconia nei suoi confronti, perché mi domando che cosa può pensare uno che genialmente ha creato un personaggio strepitoso come Cetto la Qualunque e lo vede superato e travolto nella realtà. Sì, ma infatti Albanese credo che abbia detto, quando ha fatto quel film, ma io mi sono ispirato a quello che vedo. Effettivamente è così. Si è ispirato, per carità, ma è un pallido esempio rispetto a quello che vediamo, ahimè, da qualche tempo. E la cosa che a me turba è appunto la volgarità, la sconcezza di tanti comportamenti e l'incapacità di capire che tutto questo non soltanto non ha diritto di esistenza, ma dovrebbe essere intollerabile creare. Ma sai, quando lui dice, quando lui dice c'è gente che ha fatto peggio di me, è che io esco fuori di testa quando sento queste cose. Cioè, è proprio il tema classico. Ma c'è gente che è peggio di me. È quello che viene beccato da prendere la multa dalla stradale e dice: ma perché non fermate quello che andava più veloce di me? È proprio uno scollamento, un individualismo sfrenato per cui ognuno pensa solo ai fatti propri e chi se ne frega, c'è sempre quello che fa peggio di te, no? Che dovrebbe essere preso prima degli altri. Non so. È una reazione infantile, viene in mente il bambino che a scuola dice appunto: ma lui è stato a iniziare. Solo che qui si tratta di persone che sono al comando nei posti centrali del potere. Questo è il problema. Cioè ormai è il peggio che vince. Per esempio Mirta Merlino è di Roma, Maurizio Tortorella invece sta a Milano, e quindi forse non lo so se due giorni fa ha vissuto queste scene da suburra e da Gomorra cittadina con lo sciopero dei mezzi che si è tramutato in una situazione clamorosa. Allora sapete cosa ha detto il capo della TM, cioè l'azienda dei trasporti municipali, che è andato da Pisapia? Uno dice: beh, forse va a dimettersi, che ne so, che farà, andrà a dire: beh, ecco qui offro la mia testa professionale, perché è andato lì, ha detto non c'entriamo nulla, è stato un concatenarsi di eventi, una iella incredibile, ha detto Mirta Merlino, Maurizio Tortorello, una iella incredibile, ha detto. Io appunto sono a Roma, ho visto delle fotografie che mi hanno impressionato, cioè vedere la gente che strisciava per terra per uscire sotto la Saracinesca, insomma, aveva titolato molto bene il Corriere della Sera ieri, cioè non è uno sciopero da paese civile, e la sensazione che si ha è che ormai, capito, insomma, non siamo più cittadini, siamo sudditi, cioè ti capitano delle cose che mettono proprio a rischio anche la tua dignità di essere umano, perché insomma appunto quelle foto erano incredibili. Non so, Maurizio, che bisogna fare? Per carità, io non è che dico il presidente dell'ATM si deve dimettere, non sono così, non è che traggo dei giudizi, si vedrà che cosa è successo, ma com'è possibile che vada a dire è stata una iella clamorosa? Insomma, questa è la giustificazione che dà quello che si è visto? È stata la mancata previsione di una realtà che era invece abbastanza prevedibile, uno sciopero. O viene rispettata la regola e le regole che sottendono anche a manifestazioni di protesta come uno sciopero, oppure la situazione è ovvio che degenera, degrada e si arriva a situazioni di totale inciviltà come quelle che abbiamo visto nelle fotografie e descritte sui giornali. Ma io penso per esempio alla vicenda di Tributi Italia. Che è altrettanto grave e sconvolgente, cioè è folle. Tributi Italia, gente che doveva essere l'alternativa ad Equitalia, ha preso in vari comuni, ha riscosso i tributi per circa 100 milioni, questi 100 milioni di tasse nostre, ci sono comuni come il comune di Aprilia che è al dissesto, che cosa si facevano i vertici di Tributi Italia? Questa è l'accusa. Yacht, vacanze, champagne, bella vita, con le tasse riscosse dall'ICI, dalla TARSU, dall'IMU. Evviva! Chissà se combatte ancora il nostro Rocky Fiorito, anche in carcere. Ma si informi meglio, io sono stato il primo degli eletti per tre elezioni consecutive, io vengo eletto da quando ho 24 anni per questo partito, lei non ha fatto niente nella vita, lei si deve informare, io sono stato il primo degli eletti d'Italia, in Italia sono stato il primo degli eletti, quindi non prendo lezioni da lei, è chiaro, non prendo lezioni da uno come lei, molto prezzolato, benissimo, si vada a informare, perché ha trovato male per i suoi denti. Vabbè, chissà se combatte ancora oggi Vauro, che inizia la sua collaborazione con il Fatto Quotidiano, ritrae Fiorito in una cella, di fronte a lui due detenuti che lo guardano con occhio un po' languido. E bravo Batman, adesso però ci fai Wonder Woman. Una Vabbè, dall'elenco dei regali di Francone Fiorito alla fidanzata, la ex fidanzata, anelli Damiani, borse Gucci, vacanza alle Maldive, vacanza a Positano, computer per la figlia della ex, spero tutto con soldi suoi, ma non lo sappiamo, e c'è anche la assunzione a mia insaputa. Questo dobbiamo aggiungere alla lunghissima lista. L'ex fidanzata del Batman ha detto: mi ha assunto, ma io non lo sapevo. Mi ha assunto a mia insaputa. Sì, certo, la casta e poi Tributi Italia. Mirta Merlino, ne parlerai oggi di questa vicenda, dei tributi, oppure di che parlerai oggi? Sì, no, parleremo di casta di oggi, casta, appunto, appunto. C'è poco da fare. C'eravamo oggi, il tema che abbiamo oggi scelto è quello, diciamo, delle pensioni e i vitalizi, cioè tutto il grande tema delle pensioni degli italiani che, come ben sappiamo, in una notte hanno visto spostare di anni la loro possibilità di andare in pensioni col caso Esodati, e dall'altra parte invece i vitalizi e tutta la storia delle regioni, del fatto che, insomma, a prescindere da come andrà per esempio la vicenda giudiziaria di Fiorito, lui a 50 anni prenderà un vitalizio di 3-4 mila euro, sì, per tutto il resto della, sì, vita, sì, sì, con questa regola folle che, quando il consiglio del regionale del Lazio l'ha affrontata, invece di fare come avrebbe fatto chiunque, cioè eliminare una regola che dà un privilegio inaudito a chi fa il consigliere regionale, ha pensato bene di dire che non ci sarà più a partire dal 2015, quindi no, al, certo, momento, tutto, al momento c'è. La stessa Nicole Minetti, che tu giustamente... Ma no, offre il caffè, ma perché offre il caffè? Tutti i giorni. Offre il caffè, sì, giusto, anche perché... Appunto, spero con anche soldi lei, suoi anche lei. Se rimane al suo posto fino al 1 novembre, prenderà anche lei il vitalizio alla faccia nostra. Ah no, può offrire il caffè. Devo arrivare perché ho parlato anche ieri mattina, perché noi abbiamo saputo in diretta, stavamo parlando di tasse, di... Sì, sì. Io avevo un collegamento il sindaco Tosi, che da tempo dice: basta con Equitalia, dobbiamo smetterlo, dobbiamo avere le nostre città. L'alternativa era questa, a meno a livello locale, bravo. Tributi Italia. Cioè, ecco, oggi qualche giornale titola su questo, Maurizio: i ladri di tasse, questo è Libero, il Secolo XIX, le nostre tasse volate all'estero, il Manifesto Rapina S.P.A. Cioè, questi, l'accusa, per carità, l'accusa è questa: si sarebbero presi 100 milioni di tasse riscosse agli italiani invece di darle ai comuni. Quindi hanno messo in dissesto i comuni, hanno rubato i soldi agli italiani per le tasse non incassate. E, ma che paese è? Cioè, la somma accertata finora sarebbe di 20 milioni, a dire il vero. Sì, al proprietario. Cambia poco perché no, 20 milioni solo lui, ma pare 100, sì, il totale, 20 forse, sì, il presidente, diciamo. Sì. Comunque, ne hanno recuperati 9, questa l'unica notizia positiva. No, la cosa sconvolgente, se è vero quel che leggo sui giornali, è che già dal 2001 era chiaro, o almeno era, mettiamola diversamente, facciamo i garantisti, sì, erano partiti i primi sospetti. Sì, c'erano i comuni che segnalavano, dicevano: guardate che non ci danno i soldi questi Tributi Italia. No? La follia paradossale è che la giustizia abbia impiegato 11 anni a accertare, al punto da far scattare le manette. Per carità, capita spesso in questo paese, ma in una situazione come questa, francamente, non si capisce proprio che cosa diavolo debba pensare un povero cittadino. No, ma infatti diciamo che questa vicenda è davvero emblematica e incredibile. Allora, io qua mi devo fermare per il momento, chiudiamo il bar di Radio 24. Voglio salutare e ringraziare ancora Mirta Merlino, ricordo alle 11 per chi vuole, sulla 7, l'aria che tira. E ringrazio Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama, che trovate oggi in edicola. Magna Casta, questo è il titolo della copertina, il grande libro della mangiatoia politica. Evviva, ci sentiamo, forse in coda vi dobbiamo far risentire, lo devo spiegare perché, ripeto, ci vorrebbe il traduttore, quindi devo spiegare. Quello che sentirete tra poco sono le parole di Antonio Piazza da Lecco, quello presidente dell'ALER che metteva la Jaguar nel posto disabile, quando gliel'hanno fatta spostare ha deciso per ritorsione di bucare le gomme al disabile. Così, mi è venuta così. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo, immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Subito, chiesto scusa. Era incazzatura momentanea, però subito io mi sono reso conto che ho sbagliato. L'ho chiamato. Ma che così. Come è, così? È così. Ed eccoci allora nuovamente in diretta, cari ascoltatori, alle 7:21 minuti. Siamo pronti alla lettura dei giornali. Vi ricordo che oggi alle 8:15 avremo in diretta l'ex presidente della provincia di Trapani, Turano. Che cosa ha fatto? Si è dimesso ad agosto perché si vuole candidare alla regione. Mezz'ora prima di dimettersi, la provincia ha distribuito 800.000 euro ad associazioni culturali, ma anche alla sagra della Cassatella. E insomma, soldi un po' così. Ne chiederemo conto a Mimmo Turano, ex presidente della provincia di Trapani. Ci dirà perché questa cosa. E poi parleremo sempre di incandidabilità. Questa ipotesi di rendere incandidabili le persone che hanno una condanna definitiva di almeno 2 anni. Che ne pensate? Anche il tema rilanciato dal Report di recente, vale a dire i tanti deputati che hanno problemi, deputati e senatori, con la giustizia. Ne parleremo alle 8:30. Ora i giornali in edicola. Giovedì 4 ottobre, una carrellata dei titoli. Il Sole 24 Ore apre anche oggi sulle tasse degli italiani la vicenda dell'IVA sui rifiuti, che è giudicata illegale da non pagare dalla Corte Costituzionale, da alcune sentenze della Cassazione. Eppure fisco e rifiuti, si muovono le procure. Questo è il titolo di apertura. Il Corriere della Sera: Regioni, tagli agli stipendi. Anche per la stampa: Regioni via i tagli di Monti. Il Messaggero: maxi condanna per il San Raffaele. E anche Repubblica: sanità lombarda, 10 anni a Daccò. Il Giornale invece: la vicenda di Tributi Italia, arrestati i vertici, rubano pure le tasse. Libero: i ladri di tasse. E Fatto Quotidiano: gli onesti mantengono i ladri. La Corte dei Conti dice: oltre che della corruzione, l'Italia ha pure il record mondiale dell'evasione. Il Secolo XIX, le nostre tasse volate all'estero. E la vicenda Tributi Italia, anche la prima pagina del Manifesto: rapina SPA, mega truffa ai danni di 400 comuni. L'Unità invece sulle primarie: no di Renzi alle regole del PD. Mentre Avvenire apre anche Avvenire sulla stretta su Sprecopoli prevista dal governo. Io però devo dare conto degli innumerevoli articoli che raccontano la vicenda che abbiamo raccontato anche alle 6:30, vale a dire la vicenda di Antonio Piazza, presidente che si è dimesso dell'ALER, vale a dire l'edilizia residenziale a Lecco, in Lombardia. Una vicenda che non fosse vera parrebbe uscita da una pièce teatrale, e invece è drammaticamente vera. Per 3 anni ha parcheggiato la sua Jaguar in un posto per disabile. E perché l'ha fatto? Dice: così, non ci ho pensato, c'è gente che fa peggio di me. E quando la polizia gli ha fatto togliere la Jaguar, dopo 3 anni, dopo le innumerevoli proteste del disabile a cui è assegnato il posto, ha pensato bene di prendere un punteruolo, aspettare il disabile e bucargli le gomme della macchina. Ecco, questo, ripeto, è tutto vero, non è una barzelletta. La Jaguar nello spazio disabili fa cadere il politico del PDL, così titola La Stampa. Oppure il Fatto Quotidiano, pagina 4, il posto è mio, il RAS del PDL taglia le gomme al disabile. O il Giornale, a pagina 7, il politico se la prende col disabile e si giustifica, c'è chi fa peggio. Ma sono tantissimi i commenti, anche editorialisti, che si concentrano su questo, come Mario Giordano, su Libero. L'uomo casta che buca le gomme agli handicappati, di Mario Giordano in prima pagina. Più delle ostriche di Fiorito, più dei maiali che festeggiavano con il consigliere regionale Ulisse, più della sosia di Marilyn Monroe che in una notte in discoteca diventa esperta d'ambientalismo, più dei rimborsi chilometrici, dei SUV comprati a sbafo, più disgustoso di tutto questo, cosa ci può essere? Eccolo qui. Ve lo presentiamo, il signor Antonio Piazza, dirigente del PDL di Lecco, presidente dell'ALER, che nel giro di poche ore è uscito dall'oscurità lacustre che gli era propria e si è messo a far concorrenza ai supereroi di questa stagione. Dopo Batman e Superman, entra in scena Mani di Forbice, il castigatore degli handicappati, l'uomo che toglie ai disabili per dare a se stesso. Si tratta davvero di un personaggio dai poteri straordinari. Tutte le cose che un politico può fare per mettersi in mostra, lui nel suo piccolo riesce a collezionarle in breve tempo. Prima di tutto gira in Jaguar. In effetti, cosa può fare un politico oggi per dimostrare che si fa politica per spirito di servizio e non per arricchirsi? Viaggiare alla guida di una Ferrari testa rossa, di una Maserati biturbo o al massimo di una Jaguar. E poi l'atto vandalico nei confronti del disabile, ma anche Alessandro Robecchi in prima pagina del Manifesto si concentra su questa vicenda dal titolo «La nostra piccola Guernica». L'uomo della Jaguar, posteggiare la Jaguar al posto del disabile, poi quando quello chiama i vigili aspettare che posteggi lui, scendere, procurarsi un oggetto aguzzo, chinarsi dopo aver guardato di qua e di là e tagliargli le gomme. Ecco, se riuscite a immaginare qualcosa di più stupido e cattivo, vi danno la tessera onoraria del PDL. Ora, naturalmente prendersela col bucatore di gomme Antonio Piazza, presidente dell'ALER, sembra troppo facile. La stessa cosa che dicevamo ieri di Francone Fiorito. Troppo facile, bersaglio grosso, come sparare sulle ambulanze. La stessa che potremmo dire dei consiglieri comunali che si inventano una casa lontana per farsi rimborsare i chilometri di viaggio. O del farmacista di Sciacca, nominato presidente di un parco una settimana prima che l'ente parco venisse istituito. O ancora, ecco qui, del deliberare 800.000 euro alle 23.40 del 30 agosto, 10 minuti prima di dimettersi, come ha fatto il presidente della provincia di Trapani, Turano, nostro ospite, alle 8.15, aggiungo io. O ancora, scrive Robecchi, basta sfogliare la margherita delle cronache locali, il rosario dei piccoli e grandi scandali, la miserabile cronistoria contemporanea del paese. Ecco, questa è la nostra piccola Guernica. Perché racconta Robecchi, quando gli ufficiali nazisti videro Guernica, chiesero a Picasso «Questo l'ha fatto lei?» e Picasso rispose «No, questo l'avete fatto voi». Perfetto, allo stesso modo, se domani si deplorerà che qualcuno abbia messo mano ai forconi, non bisognerà andare a chiederne conto agli incazzati, agli umiliati, ai depredati, agli offesi, ma rivolgersi gentilmente ai signori Piazza, Fiorito, Polverini, Turano e alle altre migliaia e migliaia di campioni che hanno fatto saltare il tappo». Questo Robecchi e anche il Buongiorno di Massimo Gramellini è dedicato a questa allucinante storia che proviene da Lecco. Quando ho saputo che Antonio Piazza da 3 anni parcheggia la sua Jaguar nello spazio riservato ai disabili, ho borbottato «Oibò!». E quando ho saputo che il presidente Piazza per 3 anni, dopo aver parcheggiato la sua Jaguar, è stato finalmente multato dai vigili, ho gridato «Urrà!». Quando ho saputo che il presidente multato, Piazza, pervaso dalla rabbia, ha tagliato le gomme dell'auto del disabile, mi sono chiesto «Ma dove siamo?». E quando ho saputo che il tagliagomme, Piazza, ha tentato di rimediare chiamando precipitosamente un gommista, mi sono detto «Siamo in Italia». E quando ho letto le dichiarazioni del presidente multato e chiama gommista, Piazza, «Perché dovrei dimettermi dal mio incarico politico per un errore tecnico?», mi son detto, con un corso accelerato di educazione civica, forse lo recuperiamo ancora. Ma quando ho ascoltato in TV le successive dichiarazioni del presidente multato, tagliagomme, chiama gommista, errante tecnico Antonio Piazza, cioè solo un pezzo della mia Jaguar sporgeva nel posto riservato al disabile, in realtà da 3 anni parcheggio nel posto accanto in divieto di sosta, qual è il problema? Ho capito di essere un illuso. Questa è gente che non si recupera più. Prima della pubblicità vi voglio dire le 5 parole con cui il presidente dell'ATM, l'Agenzia dei Trasporti Municipalizzati di Milano, ha definito lo sciopero che ha creato scene da Gomorra, come io le ho definite, martedì a Milano. Gente che passava sotto le saracinesche per prendere l'ultima metropolitana, 8 persone che sono dovute ricorrere ai medici, spintoni, urla, feriti, gente che si è sentita male, gente nelle gallerie. Beh, il garante indaga sullo sciopero, un caos inaccettabile, vabbè, è stata aperta un'inchiesta che finirà ovviamente anche qui nel nulla all'italiana, ma eccolo qui, il presidente dell'ATM, Bruno Rota, scrive il Corriere della Sera, non solo non si è presentato dimissionario, ma è andato da Giuliano Pisapia e ha rilanciato così, udite udite, lo sciopero di martedì. È stato un concatenarsi di eventi straordinari in pochi minuti. Insomma, è stata una iella grossa. Ma sì, siamo iellati. E la gente si spingeva nelle metropolitane. Una iella grossa. Lo sciopero di martedì, secondo il presidente dell'ATM. L'ultima frontiera che fa titolare molti giornali d'apertura è quella della vicenda di Tributi Italia, la società che doveva, in molti comuni, sostituiva Equitalia, era un'alternativa a Equitalia, una vicenda che per il momento si è conclusa con l'arresto del numero uno della società, Giuseppe Saggese, arrestato ieri. Tributi Italia, almeno 100 milioni il danno complessivo per i comuni. L'accusa è questa, l'accusa è peculato e altri reati. L'accusa è: Tributi Italia riscuoteva le tasse di molti cittadini per i comuni per cui lavorava, ma non le versava ai comuni. L'accusa è che con questi soldi, almeno 20 milioni di questi soldi, di questi 100, 20 milioni, siano finiti nella bella vita del numero uno della società, appunto Giuseppe Saggese, yacht, Rolex al polso, cene, il copione, il menù, lo sapete, è sempre il solito. Tributi Italia, arrestato Saggese, tutta la cronaca, pagina 5 del Sole 24 Ore. Tra l'altro Gianni Trovati fa anche un corsivo. Per anni denunce inascoltate, ora la svolta. Questo giornale aveva pubblicato fin dal 2009, in un'inchiesta di Roberto Galullo, l'elenco sterminato dei comuni che si erano trovati a secco per i circa 100 milioni di euro di imposte raccolte ma non riversate ai comuni da Tributi Italia. E dunque lo stupore ora è l'unico stupore ammissibile, scrive Gianni Trovati, è quello dichiarato ieri dai dipendenti della sede di Chiavari, che sono da mesi senza stipendio e che si sono detti meravigliati per il tempo che ci è voluto per arrivare all'arresto di Saggese. Anche Sergio Rizzo, in prima pagina del Corriere della Sera, nel suo editoriale dal titolo Un allarme inascoltato, scrive: questo giornale era stato il primo nel 2009 ad accendere un faro su questo scandalo. C'è chi sospettava un buco di 500 milioni. Solo ad Aprilia ne mancherebbero all'appello ben 90. Il comune di Aprilia è uno dei più colpiti. E dunque, come è possibile che tutto questo sia stato detto nel nulla? I giornali avevano denunciato questa vicenda raccogliendo le denunce dei comuni. Ora il comune di Aprilia è quello più colpito e dice: noi i più colpiti ci hanno veramente messo al lastrico. C'è per esempio l'assessore al bilancio Antonio Chiusolo, che in una breve intervista al Corriere della Sera, pagina 8, dice: lo hanno arrestato, per noi città martire dei ladri di tasse è una liberazione, aspettiamo ancora la restituzione di 93 milioni di imposte locali sparite. Altro che 100 milioni di danno, una stima prudenziale è 5 volte più alta, 500 milioni, non lo dico io, c'è scritto negli atti della Corte dei Conti. Insomma, una vicenda davvero incredibile, ripeto, i titoli di alcuni giornali: ci rubano pure le tasse, Il Giornale titola in prima pagina, oppure Libero titola in prima pagina ladri di tasse, o ancora Il Secolo XIX, che questa storia la seguiva anche perché la sede è appunto della società Chiavari. Le nostre tasse volate all'estero. L'ex amministratore arrestato perché era a rischio di fuga. I milioni non si trovano. Insomma, gabbati e contenti. Così i sindaci alle feste del truffatore. Tra l'altro in retroscena in prima pagina del Secolo XIX. A proposito di tasse, da ieri Il Sole ha messo un focus su questa vicenda della tassa sui rifiuti, per la quale gli italiani pagano anche l'IVA, nonostante ci siano sentenze della Cassazione che giudicano questa situazione illegittima. Allora continua l'iniziativa del Sole 24 Ore, cioè potete scrivere una mail, dillo al Sole 24 Ore, gli italiani che dicono: abbiamo pagato l'IVA, ora il rimborso ci spetta. Ci sono ora anche le procure che vogliono vederci chiaro. IVA e tariffa rifiuti, la parola ai PM. Da Rimini a Torino le procure stanno valutando le modalità di applicazione dell'imposta per capire che cosa ci sia di sbagliato, e comunque tutti i dettagli li trovate sul Sole a pagina 3. Oggi è il giorno invece, per quel che riguarda la lotta agli sprechi e dei costi della politica, è il giorno in cui dovrebbe arrivare il decreto del governo, un decreto che vorrà cercare di limitare le spese, contenere appunto i costi della politica. Questo nel giorno in cui Franco Fiorito ha passato la prima notte in carcere. Secondo il resoconto che trovate a pagina 2-3 del Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini, Fiorito dice, ha detto: io avevo uno stipendio triplo, udite udite, uno stipendio triplo, ebbene sì, ma sono stato fatto fuori perché non ho accolto la continua richiesta di soldi che arrivava dagli esponenti di Forza Italia. Nel primo interrogatorio da indagato ha detto: è vero, avevo una tripla indennità, ma alcuni consiglieri regionali lo sapevano. Lo ha raccontato lo stesso ex capogruppo, che ha fatto anche i nomi. Non tutti i componenti del mio gruppo consigliare erano a conoscenza di questa prassi e delle modalità con le quali mi attribuivo la cosiddetta tripla quota. Capito? Aveva una tripla quota. Qualcuno ne era a conoscenza, tra questi Romolo Del Balzo, Ernesto Irmici, il portavoce dell'onorevole Fabrizio Cicchitto, Stefano Galetto e Andrea Bernaudo. Questi i nomi, secondo il Corriere, che ha fatto. Poi ci sono i regali alla fidanzata, alla ex fidanzata, Samantha Reali. E qui si va tra due anelli Damiani, borse Gucci, vacanza alle Maldive, un PC anche per la figlia di Samantha Reali, una vacanza a Positano presso l'Hotel San Pietro, per carità pagate da lui, ma i PM lo dubitano alquanto. Da Batman alla ex una pioggia di regali coi soldi del PDL, così titolo anche a pagina 3 il Secolo XIX nell'articolo di Domenico Lusi. Samantha Reali, che fa un'intervista al Messaggero, intervistata da Aldo Simoni a pagina 9, dice: ora temo per la mia incolumità, sono costretta a vivere come una reclusa in casa, devo stare attenta alla mia persona, non posso rispondere a nessuno, mi hanno minacciata, non posso rispondere, spero solo di non avere ripercussioni. Io mi interessavo dell'attività in ciociaria, ho preso, credo, dice 7.000-8.000 euro. E poi c'è il punto più straordinario. Cari ascoltatori, dobbiamo aggiungere una cosa alla lista delle insapute, delle cose a insaputa che avvengono in Italia. C'era la casa, c'è l'IBAN, i conti, quante altre cose. Ma adesso ce n'è una nuova. Samantha Reali dice: mi ha fatto un contratto alla regione, Franco Fiorito, la nostra relazione era già finita, mi ha assunto, ma io non lo sapevo. È stata assunta a sua insaputa. È spunta un lavoro a sua insaputa. Eccolo qui. Franco mi ha assunto a mia insaputa. Beh, il titolo è a pagina 4 di Repubblica, abbastanza emblematico. Magari anche voi, cari ascoltatori, che state in questo momento andando a lavorare, avete il vostro lavoro, ma avete anche un lavoro di cui non sapete nulla, vi accorgete di un bonifico a fine mese, perché ecco, quello è il classico, lo riconoscete così, è il lavoro a vostra insaputa, ve ne accorgete dal conto corrente. Intanto Franco Fiorito, ci sono anche i dettagli di come avrebbe passato la prima notte in carcere. L'avvocato Tormina dice: sta benissimo. Vabbè, la stampa con Grazia Longo, c'è da dire che c'è anche un po' un accanimento nei confronti di Franco Fiorito, un po' sulla sua fisionomia. Per esempio, come interpretare diversamente il fatto che la stampa vuol far notare che beve Coca-Cola e Fanta nella cella? E vabbè, sono fatti suoi, perché non può bere Coca-Cola e Fanta, ma la stampa fa notare: è andato allo spaccio del carcere e ne ha presa una cassa solo per lui di Coca-Cola. Vabbè, ma insomma, questi sono dettagli proprio per volere, come si suol dire, infierire sulla Croce Rossa. Io vi voglio regalare la prima vignetta di Vauro, che inizia la sua collaborazione col Fatto Quotidiano, ha abbandonato il Manifesto anche tra mille polemiche, e c'è Franchione Fiorito in cella, di fronte a lui due altri detenuti, uno lo guarda con la lingua di fuori: e bravo Batman, adesso però c'è fai Wonder Woman. Via SMS mi fa notare che c'era anche il terrazzo di Bossi a sua insaputa, ma ce ne sono tante di cose a insaputa, a cominciare dalla famosa casa al Colosseo e poi tante. C'era anche l'IBAN a mia insaputa. Se volete invece il mio IBAN, poi su Twitter magari lo metto per fare delle generose offerte, accetto anche quello che potete dare. Poi su Twitter lo metto. Intanto oggi, come detto, il governo sceglierà per decreto di fare tagli. Che cosa si prospetta? I dettagli li trovate a pagina 13 del Sole 24 Ore. Regioni subito tagli per 400-500 milioni. Per esempio, una norma riguarderà i vitalizi. Porre una norma per la quale i vitalizi dovranno essere riscossi dopo 65 anni. Non è che si possono, credo, cancellare i vitalizi, bisogna fare altre operazioni, ma almeno metterli dopo i 65 anni. A Roma, per esempio, sempre si diceva nel caso di Franco Fiorito, li prendono a 50 anni dopo una sola legislatura. Altro tema di cui si discute molto è quello dell'incandidabilità, cioè porre una legge per rendere incandidabili coloro che almeno coloro che hanno una condanna definitiva, dunque passata in giudicato, 3 gradi di giudizio e che comporti una pena di almeno 2 anni. Anche se il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, racconta il Corriere della Sera pagina 3, dice: nel Lazio non si voterà con questa norma, perché, ha detto Patroni Griffi, credo che per le elezioni nel Lazio il governo non farà in tempo a varare le nuove norme sulla incandidabilità dei condannati definitivi. Dunque lì si vota, credo, entro 90 giorni, come ha detto il ministro Cancellieri, e dunque è difficile pensare che si rifaccia in tempo, però c'è questo tentativo almeno. La politica invece: nel PD si litiga per le primarie, per le regole fissate sulle primarie. Renzi pare infuriato. Primarie, scontro sulle regole. Renzi chiede perché cambiarle ora, e anche Veltroni dice: il partito così si rompe. Beh, come ha fatto notare in un retroscena di politica sul Corriere della Sera, insomma, sembra quasi una situazione per cui il PD è a un passo dalla possibile vittoria, ma in questo momento Veltroni dice: rischiamo di frantumarci, un qualcosa che il Messaggero stesso definisce uno psicodramma collettivo. Ecco qua anche Repubblica: PD scontro sulle regole delle primarie, alt di Renzi a doppio turno e all'albo degli elettori, denuncia, vogliono fermarmi. I Bersaniali dice: è vero il contrario. Il Giornale invece la mette così: le primarie del PD col trucco per far fuori Renzi. Insomma, il nuovo problema al centro-sinistra è le primarie e quali regole per le primarie, con Renzi, il sindaco di Firenze, che denuncia: sono regole stringenti che non vanno cambiate, rischiano di fermarmi. Dall'altra parte invece Berlusconi è nel silenzio più totale, assiste, secondo Paola Di Caro del Corriere della Sera, allo sfacelo anche che proviene da tutti questi vari scandali, l'ultimo anche quello di Lecco, di questo dirigente dell'Aler, quota PDL, davvero incredibile quello che ha tagliato le gomme al disabile. E infatti Paola Di Caro scrive a pagina 12 del Corriere: l'unica cosa certa è che vorrebbe tenersene alla larga, prendere la distanza in maniera ostentata e visibile da un partito che non conosce più come il suo. Per Repubblica pensa a un nuovo partito, mentre per il secolo XIX, nel retroscena di Giovanni Palombo, a pagina 6, Berlusconi ha un'ossessione, che è il processo Ruby, che può arrivare al primo grado tra poco. Tanto che a tutte le persone che vanno a incontrarlo pare che Berlusconi risponda così: voi fate quello che pensate, a me interessa altro in questo momento, non la legge elettorale, non il partito, ma la questione di trovare un modo per salvarmi da questo processo. Anche perché Repubblica da oggi torna con le intercettazioni. Le intercettazioni verbali. Oggi Carlo Bonini e Giuliano Foschini a pagina 9 per gli interessati, con tanto di particolari di tutti i tipi, raccontano le intercettazioni. Per esempio, tra i due fratelli Tarantini, le cene a Villa Certosa, uno dei fratelli Tarantini, Giampaolo, chiama il fratello e dice: tu non puoi capire, qui una casa di 100 ettari con 100 ettari di terreno, gente che girava coi motorini tipo i film, tipo quelli della Malavita, coi motori da cross. Poi c'è la scena del vulcano, con Berlusconi che ha un vulcano finto a Villa Certosa. E poi Tarantini che dice: ma poi c'è sta mania, le donne, è proprio pazzo fissato, ci siamo seduti sulle giostre, io mi sono seduto di fronte a lui, dovevamo essere 3 donne e un uomo, accanto a me c'era anche Simona Ventura. Questo Giampaolo Tarantini. E poi in un'altra telefonata, eccolo qui i particolari piccanti, In un'altra telefonata il titoletto è «Mi ha sculacciato un po'». Giampaolo Tarantini parla con Barbara Guerra, che deve andare lì e quindi chiede come andare. E Tarantini: «Non puoi sembrare né una troietta né una ragazzina. Portati qualche foglio, che ne so, Il Sole 24 Ore, Gazzetta, Repubblica». «Ma quanto stiamo lì?» chiede Barbara Guerra. «E che ne so, con quello sai quando entri e non sai quando esci. Ma come si è comportato? Bene?» chiede Tarantini. E Barbara Guerra: «Con me? Sì, mi ha sculacciato un po', però». Ecco, queste le intercettazioni che trovate su Repubblica. Io voglio finire con, in un minuto, con una cosa che mi ha un pochino inquietato, mi ha colpito, ecco, non voglio dare giudizi, ma mi ha colpito, questo sì. A pagina 9 di Pubblico trovate questa pubblicità, su sfondo bianco, la leggo così: AAA, cerchiamo malati terminali per ruolo da attore protagonista, donne e uomini dai 18 anni in su, anche prima esperienza. È l'associazione Luca Coscioni, eutanasialegale.it. Ripeto, mi ha molto colpito. AAA, cerchiamo malati terminali per ruolo da attore protagonista, donne e uomini dai 18 anni in su, anche prima esperienza. eutanasialegale.it. Questa la trovate a pagina 9 di Pubblico. Beh, certo, l'associazione Luca Coscioni si batte da tempo per, appunto, l'eutanasia, la legalizzazione dell'eutanasia in Italia, ma questa pubblicità e questo annuncio, ovviamente molto provocatorio, colpisce davvero come un pugno allo stomaco. Cari ascoltatori, siamo pronti con i nostri ospiti per parlare di attualità politica. Il primo ospite di oggi è Girolamo Turano, che Mimmo Turano, come la devo chiamare, presidente? Buongiorno, Mimmo. Mimmo Turano, ex presidente della provincia di Trapani, dunque siamo in Sicilia. Lei si candida alle regionali, insomma, il 28 ottobre. Esatto. UDC? Sì. UDC è il partito. UDC. Senta, presidente, dobbiamo chiedere conto di un qualcosa che è successo il 30 agosto. Lei si è dimesso il 30 agosto, che era il termine ultimo per candidarsi poi alle regionali. È solo che scrivono i giornali che... io ho le delibere, peraltro, sotto mano, che poche ore, un paio d'ore prima di dimettersi, la sua giunta ha approvato una serie di delibere per un totale di 881.000 euro ad associazioni, enti, finanziare spettacoli teatrali, sagre, parrocchie. Come mai, presidente? Così, sono delibere che erano pronte da parecchio tempo e che sono state adottate il 30 di agosto, come spesso capita in tutte le amministrazioni quando si fa un'attività di programmazione che dura tutto l'anno. Però un'ora prima di dimettersi, capisce che... No, guardi, non ho guardato l'orario e a me interessa poco. A me interessa avere garantito e servito il territorio che ho avuto il piacere e la fortuna di amministrare. Garantirlo e servirlo vuol dire dare anche prebende per 881.000 euro? Non credo. Se lei ha le delibere sul tavolo, le possiamo guardare tutte. Sì, guardi, non so, per esempio, la sagra della Cassatella, 7.000 euro. Cos'è la sagra? Sono molto fortunato nel ricevere questa domanda, alla quale cercherò di essere di dare una risposta puntuale. Credo che serva a me, a lei e a tutti gli amici ce la dia. Ascoltando. Allora, la sagra della Cassatella è una manifestazione che si è tenuta, o per meglio dire, che era arrivata alla terza edizione, sì, ed era sostenuta anche da altri enti. Quando io mi sono preoccupato prima di approvare la delibera, ho fatto un atto di indirizzo e ho scritto espressamente che avrei valutato una serie di iniziative. Sì. Tra le iniziative da promuovere c'erano... La sagra della Cassatella. No, per nulla. C'erano le iniziative a valenza internazionale, le iniziative nazionali, le iniziative siciliane inserite nel circuito della regione. E poi le sagre paesane. Era scritto pure nella delibera che avrei promosso o privilegiato le istanze che provenivano dai comuni. Ma per carità, sì, però, presidente, 7.000 euro alla sagra della Cassatella, 1.000 euro alla mostra dei formaggi della Valle del Belice, alla sagra della ricotta. Ecco. Beh. Formaggi della Valle del Belice sono prodotti tipici locali che vanno tutelati. Ma d'accordo, ma perché con soldi che sono pubblici, cioè 800, questo fa un elenco di 1000 euro qui, 2000 euro qui, sono 881.000 euro. E fa bene ad avere questo elenco, perché se lei avesse guardato con... Veda, io credo che sul punto c'è una speculazione politica, sì, nata da un consigliere provinciale, anch'esso candidato, e sostenuta da un sindaco che dice che quella sagra non c'è stata. No, non è questione se ci sia stata o no. Io le chiedo se è giusto il principio di finanziare la sagra della Cassatella, piuttosto che l'intervento intervento culturale per il World Guinness, la tela più lunga del mondo, che si è tenuta a 3.000 euro in un paese, evidentemente hanno fatto un record, oppure la mostra ornitologica regionale 2.000 euro. Guardi, vede, siamo in un momento molto delicato dove fare una speculazione è assolutamente semplice, le persone non capiscono perché si dà 3.000 euro. Ecco, per ce lo spieghi. Certo che glielo spiego, per fare un evento o come la tela più lunga del mondo. Ho incontrato l'amministrazione di Castellammare del Golfo e un'associazione che mi ha proposto un'idea secondo me intrigante. Noi vorremmo entrare nel primato nel Guinness dei primati e vorremmo provare a cimentarci per costruire la tela più grande del mondo. Oh, lei ha idea di quante persone sono venute quel giorno nella È tutto, Presidente, ma è tutto legittimo, cioè se vogliono entrare nel Guinness dei primati, è tutto se lo paghino però, cioè capisce perché? Che sia legittimo è assolutamente certo, e peraltro è stato confermato pure dal commissario che è arrivato dopo, che il Presidente della provincia ha l'obbligo di tutelare e di sostenere le iniziative che fanno parlare del proprio territorio è un fatto assolutamente oggettivo. Ma sostenetelo, che ne so, promuovendolo, magari scrivetelo nel giornalino della provincia, ditelo in giunta, bravi, gli fate un applauso, ma con soldi, capisce? Sono soldi pubblici che poteva magari utilizzare a fare una strada, a fare qualcos'altro. Guardi, quei soldi pubblici erano negli appositi capitoli di bilancio approvati dal Consiglio Provinciale. Io avevo dei denari per i servizi sociali, dei denari per le iniziative turistiche, dei denari per le iniziative paesane, dei denari per poi ci sono associazioni, parrocchie, cioè tantissime associazioni, onlus, parrocchie. Infatti, se lei prova a leggere l'atto di indirizzo, le faccio un esempio, giusto? Sostenere una manifestazione a favore della Proloco di Pantelleria, perché gli albergatori di Pantelleria, che pagano il gap di essere isolati dal resto dell'Italia, stanno cercando di promuovere il proprio territorio per far arrivare i voli charter. Io credo che sia un compito. Però, Presidente Turano, mi faccia fare questa domanda. Senta, perché ieri avevo anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Cascio, ho fatto la stessa domanda anche a lui. Visto che a pensare male si sbaglia, ma a volte ci si azzecca, non è che tutte queste prebende servono poi a cattivarsi le simpatie in vista di un voto molto vicino alle regionali di molte persone? Le dico perché? Perché queste iniziative che ho sostenuto non sono iniziative che sono state concertate all'ultimo minuto. Nel mese di gennaio, quando non si sapeva. Però sono state approvate l'ultimo minuto. Nel mese di gennaio, quando non si sapeva che c'erano le elezioni, io non sapevo assolutamente di dovermi candidare. A noi abbiamo pubblicato un bando, le domande arrivano entro il mese di aprile, vengono scritte dagli uffici. Io credo che. Le faccio un esempio, per ora stanno mettendo in croce il presidente della regione siciliana Lombardo perché non spende soldi. Sì. Ok? Come non spende soldi? Non spende soldi, tutti i soldi che arrivano alla Comunità Economica Europea. Ah, ecco, perché la Sicilia non spenda soldi. Le spiego. Io pensavo che lei mi chiedesse, presidente, come mai è l'unica provincia la sua o uno dei pochi enti locali ad avere già approvato il bilancio? Le domande un po' più cattive, negativo. Perché io ho approvato il bilancio, e quando si approva un bilancio lo si approva per spenderlo, e l'ho speso. Presidente, il dato di fatto, lei mi sta dicendo, da mesi avevamo previsto queste cose, però mezz'ora, un'ora, due ore prima di dimettersi, la tempistica Non ha guardato l'orologio. No, non è che non l'ho guardato. Non si giudica un atto in relazione al tempo in cui viene reso. Ma infatti, guardi, a mio modesto avviso è un atto che non andava preso neanche a gennaio. Cioè 881.000 euro per queste, iniziative. Veda, guardi, mi faccia dire una cosa. Diversamente parliamo di cose che sono utili, però non rendono giustizia dell'operato di un ente, ecco, non del suo presidente, ma dell'ente provincia. Però le persone sono, come dire, prese dal desiderio di rivedere una politica con costi contenuti, è giusto. È cosa che ci sta tutta. È appunto. Ma infatti è questo l'accusa, guardi, ma mi scusi Presidente, l'accusa che fanno a lei, ma come a tutti gli amministratori quando ci sono, perché non è solo a Trapani che danno dei soldi, è di quello di voler dare dei soldi a persone che poi votano, associazioni, parrocchie, si figuri. Ma guardi, le posso dire una cosa, io non conosco queste, io ho fatto un atto di indirizzo, non conosco i... Ma ci mancherebbe, ma nessun politico conosce i suoi elettori, però capisce, se li ingrassa. Non so come dire. No, non se li ringrazia con la manifestazione. No, cioè se lei finanzia la sagra di Bonagia, che ne so, una sagra di Bonagia con 2.000 euro, non crede che qualcuno sia contento a Bonagia riconoscente per questo? Vedrà che a fine mese proprio Bonagia io non prenderò soltanto un voto. Vabbè, ho fatto un nome a caso. Valderice, Erice, non lo so, da qualche parte li prenderà. Cioè. Le manifestazioni enogastronomiche, turistiche, culturali che si organizzano in provincia di Trapani servono per attirare turisti e per fare parlare bene di questo territorio. Io sono fiero di avere speso dei soldi per manifestazioni che hanno portato ricchezza sul territorio. Sono fiero di avere sostenuto il Couscous Fest perché abbiamo avuto 250.000 visitatori. Il Couscous Fest? Cioè quanto avete dato al Couscous Fest? Ah, glielo dico subito, più di 100.000 euro. 100.000 euro? Accidenti. Sì, sì, sì. Lei sa, questa mi è sfuggita. Conosce San Vito Lo Capo? Sì, beh, certo, posto straordinario. Conosce il Couscous Fest? No, il Couscous Fest no. No, San Vito Lo Capo è un posto straordinario. La voglio invitare a venire a vedere questa quello che a San Vito si è realizzato anche per il tramite del Couscous Fest dell'amministrazione di San Vito. Vabbè, San Vito Lo Capo però è un posto straordinario, già turistico di per sé. E allora per fare parlare della provincia di Trapani, sapendo che San Vito Lo Capo è un'eccellenza, io devo organizzare, devo sostenere delle iniziative fatte per esempio nel mese di maggio, nel mese di settembre, come il Festival degli Aquiloni o la manifestazione sul pesce dimenticato, per destagionalizzare e allungare la stagione. Se lei avesse saputo che al Couscous Fest sono arrivate 250.000 persone, capisce che se queste persone... Un bel investimento, insomma. No, sì, guardi, queste persone sono state ricevute tutte a casa di parenti e amici, non hanno mangiato, non hanno bevuto, non hanno affittato la macchina per arrivare, avranno preso un caffè, avranno lasciato 250.000 euro sul territorio. Io ne ho spesi 100, quindi ritengo... Un investimento produttivo. Me lo posso permettere di fare tutto questo? Sì, perché? Continuo a parlare con l'enfasi come se fosse ancora il presidente della provincia, chiaramente non è così, perché io ho rispettato il patto di stabilità, ho estinto i mutui che la provincia aveva contratto indebitamente, ho ricevuto una premialità da parte del ministero, quando il ministro Passera dice vanno premiati gli enti virtuosi, ecco. Una è la provincia di Trapani. No, ma non si incensi troppo, io qua mi devo fermare che il tempo è scaduto. Verrà. Posso dire l'ultima cosa? Sì, me la dica. Siamo l'unica provincia ad aver approvato lo standing review. Prima di approvare quella delibera dà dei denari per le manifestazioni, ci hanno comunicato che lo Stato ci trasferiva meno 2.5 milioni di euro. Abbiamo fatto la variazione di bilancio e ho lasciato il bilancio della provincia in ordine. Va bene, viva la provincia di Trapani, verrà premiato sicuramente da tanti elettori. Le faccio tanti in bocca al lupo per la campagna elettorale della regione Sicilia. Grazie. Allora, il tema della incandidabilità dei candidati, dei politici. A questo sta pensando il governo. Si vuol fare un disegno di legge, una delega al disegno di legge sulla corruzione che è in discussione da tempo alla Camera e al Senato. Per rendere incandidabili coloro che hanno una condanna definitiva che prevede una pena di almeno 2 anni di carcere. Che ne pensate? È giusto? Vorreste veramente invece cacciar via anche coloro che hanno, che ne so, una condanna in primo grado, coloro che hanno un'indagine in corso? Ne parliamo con l'onorevole Giancarlo Lehner. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei, saluto anche lei è di adesso di Popolo e Territorio, se non sbaglio. Sì, eletto nel PDL, ora Popolo e Territorio. Saluto anche l'onorevole Francesco Barbato, Italia dei Valori. Buongiorno Barbato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i ascoltatori. Senta, Lehner, lei ha una condanna, credo, per diffamazione a mezzo stampa. È passata in giudicato, cioè quindi definitiva. Certo, certo. A quanto la condanna? Beh, no, è soltanto soldi, insomma, non al carcere. Però la condanna, lei si sente per questo incandidabile? Assolutamente no, direi che per uno scrittore, un giornalista, certe condanne sono, insomma, medaglie, nel senso che spesso succede che un giornalista che ha coraggio va a toccare certi poteri forti e dove naturalmente paga le conseguenze. Spesso sono medaglie d'oro, insomma, al valore, no? Sì, la diffamazione. Beh, medaglie d'oro. Poi uno in teoria, non dove sei stato condannato, vuol dire che ha diffamato, però. Ma guardi, posso dirle questo? Sì, cioè un conto è dire mi prendo una denuncia a chi non ce l'ha, sì, anche sì, a me, no, è arrivata, allora, diffamazione. Aspetti, io, però poi io, uno o deve vincerle o se no. Sì, no, però spiego subito. Io ho scritto, non so, 1 milione di articoli, credo, ho scritto 25 libri, eccetera. Mi è successo di avere querele. Ogni volta che sono arrivate dal signor Nessuno, le ho tutte estraninte. Quando sono arrivate dai grandi poteri forti, spesso io ho perduto le cause, quindi stiamo accettando. È sempre così. Onorevole Barbato, a lei dà fastidio sapere di sedere vicino negli scranni di Lehner, che è condannato, anche se per diffamazione, comunque il carcere non c'entra, Barbato? Guardi, a me fa senso trovarmi accerchiato, per la verità, da una politica che deve fissare per legge i casi di incandidabilità, nel senso che dà la misura di quanto siano marci oggi i partiti. Sa perché? Perché negli altri paesi civili, i paesi europei, in Giappone anche, insomma, dove c'è un collegamento forte tra la politica e l'etica e la morale, guardi, lì i ministri si dimettono per aver detto una bugia, i ministri si dimettono se hanno trasportato sull'aereo di Stato un tappeto che hanno acquistato in Persia, insomma funziona così. Ma quando noi invece ci troviamo in un Parlamento che è più Batman di Fiorito, sa perché? Perché il Parlamento non è trasparente nella spesa. Ieri proprio è stato approvato il bilancio e ha un bilancio. Ma come no? Spendete 1 milione di euro in carta igienica, per esempio, ho scoperto. Che è impenetrabile, sa perché? Perché non si conoscono le spese analitiche che fa la Camera dei Deputati, non si sa a chi vengono affidati gli appalti. Anzi, io vorrei chiedere, tramite la vostra radio, al Presidente del Consiglio dei Ministri Monti, che sta sbandierando, sta facendo propaganda delle anticorruzione. Allora, io gli vorrei chiedere chi ha vinto la gara del bar che è all'interno di Palazzo Chigi. Perché lei non lo sa. E chi sono le impalcature dei lavori che stanno rifacendo la facciata di Palazzo Chigi? Ma non è un appalto pubblico? Cioè non è una cosa sono pubblica. Appalti pubblici, però sa come funzionano i più alti palazzi dello Stato, cominciando dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno segretati questi appalti. Cioè, vabbè, non però si riesce qua, a sapere qua, perché magari funziona. Usciamo un attimo dal tema, questo l'ha lanciato, però mi stia sul tema, Barbato, le chiedo, lei dove porrebbe il paletto per l'incandidabilità? Cioè c'è un'indagine, viene rinviato, non so, c'è un'indagine in corso, quindi arriva un avviso di garanzia, una persona già si dovrebbe dimettere, secondo lei? Guardi, nelle istituzioni chi rappresenta lo Stato, come recita la nostra Costituzione, deve farlo con onore. E allora farlo con onore significa che non bisogna aspettare la sentenza, il magistrato. Se c'è un comportamento, ripeto, immorale, prima che ancora illegale o penalmente rilevante. Ma chi lo stabilisce? Allora, lo stabilisce garantisce innanzitutto il controllo dei cittadini, il controllo della stampa, i giornalisti che dovrebbero scorticare vivi i politici piuttosto che prenderli sotto il braccio e fare insieme la palude che non si so, sta vediamo perché Lener è anche un giornalista, Lener, le piace questa idea, cioè, perché è un po' pericolosa Barbato, No, ma poi Barbato è un politico anche lui, quindi direi di essere più consapevole. No, guardi, queste sono mode, adesso è chiaro, noi siamo nell'epoca di Fiorito, Lusi, Penati, Belsito, eccetera, e quindi è chiaro che c'è una caccia all'uomo. Posso dirle però che sono mode, sono ondate, perché per esempio nel 1946, se noi avessimo applicato questa incandidabilità, tutti i padri della Costituzione italiana non sarebbero stati eletti, perché tutti erano stati condannati a pene passate in giudicato. E dal fascismo, non ha importanza, erano condannati da magistrati con pene passate in giudicato, quindi Nenni, De Gasperi, Terracini, Saragat e via di seguito. Sono mode, insomma, voglio dire poi un'altra cosa, per coerenza... Ho capito, però Lener, scusi, sono mode, cioè lei dice è una moda un po' la caccia all'uomo, no, però... No, sono mode perché c'è Penati, Fiorito, Lusi e Belsito, cioè non è da cose oggettive, appunto, non è che può definire una moda di fronte al fatto che gli scandali ci sono, cioè più che moda è forse una reazione normale, legittima della gente che dice basta. Però sono mode, poi insomma passerà, per esempio ci sono delle incoerenze, perché siccome, attenzione, il Parlamento è oggettivamente specchio del Paese, sì. Allora direi, se vogliamo essere davvero intelligenti, colti e precisi, io direi perché allora non ammettere al diritto di voto soltanto gli incensurati. Questa non è male, Barbato, non ha tutti i torti, come quando si diceva Leo Longanesi, no? L'80% sono in Parlamento, il 10% sono meglio della gente comune, il 10% peggio, l'80% rispecchiano il paese in cui viviamo, quindi non è che voi siete dei super uomini diversi, cioè se il paese ha un alto tasso di corruzione, purtroppo... No, guardi, noi dovremmo essere diversi perché dovremmo migliori. Rappresentare il buon esempio agli italiani, ma sa perché questo Parlamento e questi partiti sono il cattivo esempio di una politica marcia e corrotta? Perché l'Unione Europea ha varato una direttiva che recepisce due convenzioni internazionali in materia di anticorruzione, quella di Strasburgo del 1999 e quella di Merida del 2003. Lo sapete che noi siamo l'unico paese che non ha ancora recepito una direttiva comunitaria in materia di anticorruzione? Lo sapete che l'ha recepita finanche il Portogallo e la Grecia, oltre a Gran Bretagna, Belgio, Svezia, Norvegia, Zambia, paesi normali. Questo dà il senso di come questo Parlamento di oggi, che è cosa diversa dai Pertini, dai De Gasperi, che si battevano perché facevano i partigiani. Però c'è anche lei, Barbato. Cioè lei ne parla del Parlamento come se lei non ne facesse parte. Barbato. Ma io ne faccio parte, ma lo rappresento come vuole la Costituzione. Guardi, di me su un giornale Barbato, una notizia dove non c'era né inchiesta, non ero né indagato né nulla, mi sono sospeso dal Parlamento perché, ripeto, su un parlamentare, su un politico non ci deve essere neanche un'ombra, che un'inchiesta, altro che una condanna. Ho capito, ma neanche un'ombra, cioè, quindi lei interverrebbe nel momento in cui un articolo ben dettagliato di un giornale dice che un parlamentare ha fatto una cosa fuori posto, quella persona già si dovrebbe dimettere senza neanche l'indagine, altro che primo grado, altro che sentenza passata in giudicato. Che ne pensate? Anche due ascoltatori che ci hanno chiamato all'800240024, ci stanno chiamando in molti, ma sentirei Giovanni da Roma, buongiorno, siate sintetici per cortesia che il tempo vola. Giovanni. Sì, grazie, buongiorno a tutti quanti. Volevo dire, qui si distingue esattamente che ci sono due Italie, Italia di serie A e serie B. Io faccio l'autista, il trasportatore, porto la mondezza. Sì. Esattamente la mondezza. Beh, è un servizio utilissimo, indispensabile. Sì, altrimenti... Però per essere assunto hanno voluto la mia fedina penale pulita, altrimenti non mi assumevano. Se vado a fare il portinaio in un ente, vogliono la mia fedina penale pulita. Però mi scusi Giovanni, fedina penale pulita cosa vuol dire? Se lei in questo momento avesse un'indagine in corso, non è segnata. No, parliamo di quelli già giudicati. Ah, ecco, appunto. Anche per un giorno di condanna, un giorno, ho la fedina penale sporca. Certo. Non posso essere assunto per portare la monnezza. E qui si discute di 2 anni. Cioè, la legge non è uguale per tutti. Allora, gli italiani sappiano che la casta è la casta e decide per conto loro se sono giudicabili o non giudicabili, non si possono candidare. E lei dice, io un giorno di carcere. Certo, un giorno di condanna. Io non potrei fare quello che faccio. Grazie Giovanni. Andrei da Oscar a Modena. Buongiorno Oscar. Buongiorno Mina, lei e i suoi ospiti. Senta, niente, praticamente volevo ribadire quello che ha detto Giovanni prima. Io ritengo che questa gente qua deve avere la fedina penale candida, pulita. E poi una cosa la quale non riesco ancora a capire è perché non venga ripristinato lo stato di diritto, dove uno che commette la pena paga. Va bene, insomma, ribadisce quello che dice Giovanni. Vorrei andare a Gilberto. Gilberto, buongiorno, dove ci chiama Gilberto? Buongiorno, telefono da Verona, buongiorno. Dica Gilberto. Allora, niente, io solamente sono rimasto inorridito dalle dichiarazioni di questo onorevole del partitino che non ha mai avuto voti dagli elettori, che dichiara che è una moda evidenziare il problema, i problemi che stanno venendo fuori sulla sì, l'onorevole, l'onorevole Lehner che l'ascolta, sì. Esatto, sì, e che assolutamente paragona i condannati del fascismo eletti nella Costituente ai Fiorito o al futuro Fiorito quando sarà condannato. Direi che è talmente scandalosa questa affermazione che forse sarebbe giusto mandare lo scritto di queste dichiarazioni al collegio dove lui si candiderà nella speranza che non prenda neanche un voto. Gilberto, stia con noi, le risponde lei, ne l'ha sentito, è rimasto scandalizzato di questo paragone che le fa dicendo allora anche nel 46 i padri... Ma non ho fatto un paragone. Ha detto no? i padri della, allora, della questo Repubblica. Signore, questo signore mente per la gola, perché io non ho fatto nessun paragone, ho detto che se la regola nel 46 fosse stata sì. Era condannato con sentenza, ma quelli erano stati condannati dal fascismo. Ma come non ha importanza? C'era una dittatura. Sono state condannate da magistrati italiani, non dal fascismo. E beh, certo, ho capito, però c'era una dittatura. Io vorrei, scusi, mi faccia parlare. Facciamo un altro esempio. Allora, Alighieri, per esempio, Dante Alighieri, sì. Padre della nostra lingua, sì. Condannato, attenzione, per tangenti, condannato a morte, addirittura al rogo, non potrebbe entrare in questo Parlamento. Francamente, fra Dante Alighieri e il nostro amico Barbato, io sceglierei Dante Alighieri. Vabbè, ma adesso questo ha fatto un paradosso. Gilberto si è molto arrabbiato. Giustificate. Perché ho citato Lucio, Penati. Sì, ma capisce eccetera. Che definirla moda, anche se giustificata. No, perché, attenzione, perché 20 moda? Anni fa, no, 20 anni fa, 30 anni fa, quando c'era davvero la casta, sì. Non se n'era accorto alcuno, quando c'era anche allora corruzione, non se n'era accorto alcuno, non si parlava di casta, non si parlava di incandidabilità. E sono arrivate le monetine. Sono ondate. Gilberto è contento della spiegazione? Assolutamente, no. Forse è meglio che l'onorevole cominci a tacere, perché aggrava ancora di più l'immagine dei politici che ci possono essere ancora qualcuno di onesto. Va bene, grazie Gilberto, insomma non le è piaciuta la spiegazione. In ogni caso, Barbato, gliela ripeto così, mi risponda in maniera chiara. Lei, secondo lei, un deputato si dovrebbe dimettere nel momento in cui viene fuori un articolo che magari è sbagliato, in cui si dice che ha fatto una malefatta, nel momento in cui si apre un'indagine che poi magari verrà archiviata mi dica quando esattamente? Le dico io quando. Dica. Io l'ho detto in Parlamento 2 anni fa, tre anni fa, quando dicevo ad esempio all'onorevole Cosentino che non può stare in Parlamento, o come dicevo all'onorevole Landolfi che non può stare in Parlamento. Che non hanno condanne in giudicato. Che diciamo, non hanno condanne, ma sai che meccanismo scatta? Io ho avuto degli atti di citazioni sia da Landolfi che da Cosentino, che mi verrà il 30 ottobre prossimo. Sì. Ma sai come mi sono comportato? Io non mi sono avvalso del mio potere di insindacabilità delle mie opinioni, perché sono andato a farmi le cause e il Tribunale di Milano mi ha dato ragione contro Landolfi e la stessa cosa farò ora con Cosentino. Vabbè, ma quindi quando si devono dimettere? Nel momento in cui c'è un'indagine? Ma certo. Beh, ma Cosentino però hanno chiesto l'arresto. Che sono collusi con la Camorra, oltre che per corruzione o per altri reati contro la pubblica amministrazione, ma che dobbiamo aspettare la sentenza? Però le chiedo se poi la sentenza nasconde la politica. D'accordo, ma aspettano le sentenze. D'accordo, però il dilemma sul quale non c'è una risposta definitiva è questa: se la persona poi accusata si dimostra innocente, chi gli ridà l'eventuale posto in Parlamento che si è tolto? Nessuno, ovviamente. Ma l'innocenza può esistere dal punto di vista penale, ma se tu hai avuto rapporti con camorristi, dici ti vedi al bar con loro, ma non è che lo stabilisce lei, hai condivisioni, c'è un aspetto morale prima che penale. Guardi, l'altro giorno in Parlamento ho votato contro il bilancio della Camera, sai perché? Sì. Perché in Parlamento sono peggio di Fiorito, sono ancora più Batman di Fiorito, perché ad esempio il finanziamento ai gruppi parlamentari, lo sa che alla Camera avviene allo stesso modo di come avviene nelle regioni, con la differenza che almeno nelle regioni la Guardia di Finanza è andata in regione Lazio, in regione Campania, Piemonte, e sbatte in galera i vari Fiorito. Io sono d'accordo, però il concetto della moralità può funzionare allo stesso modo. Sì, ma il concetto di moralità è un concetto molto molto aleatorio, un concetto molto personale. Per lei, giustamente anche per me è immorale frequentare un mafioso, per carità, ma poi magari quello ti va a dire: ma io frequento il paese, non sapevo che era mafioso, e lo deve stabilire chi? Un giudice? No, lo deve stabilire un articolo. Insomma, il tema è molto molto dibattuto. Io per il momento vi ringrazio, torneremo su questo tema, vedremo come si svilupperà la questione anche con la legge delega del governo. Eravamo con l'onorevole Francesco Barbato dell'Italia dei Valori e l'onorevole Giancarlo Lehner di Popolo e Territorio, anche se eletto nel Popolo della Libertà. Che dire, riascoltate tutto su radio24.it, c'è il podcast. E poi ringraziamenti a Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, l'alpino Peter Bescapè. Ci trovate anche su Twitter, Alino Milan, sono io, e ci troviamo domani alle 6.30. Roberto Formigoni, buongiorno. Non le rispondo, ho già risposto tante volte. Non rispondo, alla questione delle vacanze. La tolgo dall'imbarazzo di fare la domanda di un concorrente che poi il suo editore si arrabbia con lei e dice: ma fai pubblicità a noi e non fare pubblicità alla stampa concorrente. Accidenti, poi mi licenzia magari. Allora niente, allora fermiamoci qui. La ringrazio. Le risparmio il licenziamento. Grazie.